Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia la prima puntata di Focus Economia della settimana. Allora, i temi di questa giornata economico-finanziaria: riprenderemo in apertura un'inchiesta del Sole 24 Ore di oggi, del lunedì, sulle casse previdenziali, ossia quelle forme di previdenza dedicate a alcune categorie: commercialisti, giornalisti, ragionieri, geometri, avvocati, medici, consulenti del lavoro, perché oggi il Sole, senza creare allarmismo, però crea allerta, come dal titolo, sul futuro delle casse di previdenza. C'è il timore che scricchi un po' queste casse. In teoria così non dovrebbe essere, perché essendo casse chiuse, dedicate a alcune categorie professionali, dovrebbe essere più facile rispetto alla classica INPS controllare come va la gestione. Ci sono stati alcuni problemi, ci sono stati alcuni timori che alcune di queste casse, oltre che i fondi di previdenza integrativa, potessero aver investito in strumenti tossici, in strumenti di carta, di sabbia, Lehman Brothers su tutti, obbligazioni Lehman Brothers su tutti. Da quello che si capisce non è così drammatica la situazione, non è così pericolosa, però c'è anche chi chiede un obbligo, tra virgolette, quasi di legge per le casse nel limitare quello che è la loro discrezionalità nell'investimento, visto che la loro funzione unica è totale deve essere quella di garantire una pensione integrativa se fondo o totale se cassa a chi per anni ha versato i soldi. Quindi non si chiede un grande rendimento, si chiede il mantenimento del capitale, l'assunzione del minor numero di rischi possibili. Di questo parleremo tra un attimo, nella giornata in cui il Consiglio di amministrazione di Alitalia dà il via libera alla Air France, anche se il sindaco di Milano Moratti dice che Lufthansa è ancora pronta a fare un'offerta, ma insomma pochissimi sono quelli che scommettono che vi possa essere un colpo di teatro nel finale. Già da settimane lo raccontiamo anche noi, per un insieme di motivi: penale da pagare per l'Italia se rompesse l'accordo già esistente con Air France, facilità anche nell'operatività dei voli, per un insieme di motivi, e il fatto che Lufthansa non abbia mai ufficialmente presentato una proposta. Dicevo, da settimane si attende che sia Air France il nuovo partner di, o meglio, il partner della nuova Alitalia. Nuova Alitalia che domani ufficialmente inizierà a diventare operativa. Giornata storica per tutti quelli che volevano e chiedevano che l'Italia venisse privatizzata. Il percorso è stato lungo, articolato, pieno di polemiche, di critiche per come ci si è arrivati da una parte e dall'altra, critiche anche politiche. Insomma, quello che è il dato di fatto è che, seppur con un costo non indifferente per i contribuenti e seppur con, appunto, un travaglio che avremmo preferito non vedere, da domani quella che volerà con la sigla l'Italia è una l'Italia privata, non più a carico dei contribuenti, la good company. La bad company ce la becchiamo ancora per un po'. E questo è l'altro tema di Focus Economia. Il mercato dell'auto, tra l'altro oggi è arrivata una notizia importante anche per quello che riguarda Fiat: si è dimesso De Meo, ma al di là del caso Fiat, dopo 7 anni passati come responsabile dei marchi Alfa Romeo e anche del group marketing, il mercato auto oggi è al centro dell'attenzione, perché nel fine settimana si è aperto il salone di Detroit. Poteva aprirsi, per quello che abbiamo visto in queste settimane, praticamente bardato a lutto, con i tre marchi principali americani, General Motors, Ford e Chrysler, in ginocchio, che vivono solo grazie alla flebo che gli ha dato il governo Bush e che forse confermerà il governo Obama: 14 miliardi di prestito per farli sopravvivere fino a marzo. Ma insomma, da lì partiremo con altri ragionamenti sul settore. 349-238-6666 per i vostri sms. Prima di partire con le notizie in breve, ringrazio tutti gli ascoltatori che ci hanno scritto in questi giorni citando altri casi di previsioni sbagliate degli analisti. Mi riferisco alla puntata di venerdì scorso con la base sonora di Cenerentola. Magica Bula non la ripeteremo, grazie, perché comunque è tutto materiale che ci serve, che magari più avanti riproporremo. Adesso le notizie in breve, poi parliamo delle casse di previdenza, dei vari ordini o comunque delle varie categorie professionali. Non ne vuole sapere, per fortuna nostra, il petrolio di tornare sopra i $50 al barile, nemmeno sopra i 40, visto che a New York in apertura è andato a 38,4. Per quello che ha a fare con il gas, invece, l'accordo è raggiunto, domani dovrebbero ripartire le forniture, anche se non manca sempre uno strascico polemico. Da Gazprom poco fa è arrivata la nota che se si verificheranno di nuovo fenomeni di sottrazione di gas da parte dell'Ucraina, Gazprom tornerà a bloccare le forniture di gas verso l'Europa. Scende intanto l'Euribor al 2,65%, il minimo dal 24 febbraio del 2006, così come, e ho dimenticato di anticiparlo, ne parleremo dopo i mercati, i bot annuali hanno toccato il nuovo minimo storico in Italia, all'1,84% rendimento lordo. Un calo fortissimo di quasi uno 0,8% in meno, uno 0,79%. Per la precisione, è la prima volta che scendono i bot sotto i 2% di rendimento lordo da 2 anni, mentre per quello che riguarda i bot a un anno, che è quello più utilizzato come riferimento, il precedente record era del giugno 2003 e battuto oggi con l'1,84%. Molto alta la domanda, 20 miliardi di titoli contro 13 miliardi offerti. E secondo gli analisti, questo rendimento dei bot che scende al minimo storico è frutto sia del ricorso o della fuga verso i prodotti garantiti e sicuri, ma anche sta già scontando un prossimo taglio dei tassi di interesse della Banca Centrale Europea. Andiamo avanti, sempre sulla Banca Centrale Europea, ha detto oggi Jean-Claude Trichet, nelle vesti di presidente del Global Economy Meeting, la crisi durerà tutto il 2009 e ne usciremo solo nel 2010, che sarà l'anno della ripresa. Speriamo che questa volta Trichet ci azzecchi. Ha detto che però sui mercati manca l'impatto, non si vede ancora quello che è stato l'impatto, quello che è stata l'operazione messa in atto dalle banche centrali dei vari governi. Nel frattempo UBS, colosso bancario, la maggiore banca svizzera, era prima dell'inizio di questa crisi, se non ricordo male, la prima banca europea, potrebbe registrare un'altra bella perdita nel quarto trimestre del 2008, 7 miliardi di dollari di svalutazioni. UBS si era veramente ficcata in tutti i prodotti tossici americani, non si è fatta mancare nulla. Praticamente il totale delle perdite che ha registrato UBS nel 2008 ammonterebbe così a 18 miliardi di dollari, giusto per dare l'idea, una manovra finanziaria di un paese come la Francia o l'Italia. E UBS fino adesso ha già svalutato per 40 miliardi di dollari. Parte intanto in Germania, per la precisione, la Daimler, la settimana corta, per la prima volta da 15 anni viene ridotto l'orario di lavoro di decine di migliaia di lavoratori. Settimana corta da oggi fino alla fine di marzo nel suo impianto principale, quello di Sindelfingen. Praticamente con il primo pacchetto di misure anticrisi il governo tedesco ha esteso da 12 a 18 mesi il periodo in cui le aziende possono ridurre l'orario senza perdere i previsti aiuti statali. Lo Stato nel frattempo integrerà fino al 70% la parte di minor guadagno nel salario. Ancora per quello che riguarda l'economia italiana, il sondaggio, l'indagine per la precisione della Banca d'Italia, indagine trimestrale realizzata con il Sole 24 Ore, segnala quasi 9 imprese su 10 che prevedono un'economia in peggioramento, l'87% delle imprese. Pensate che solo 3 mesi prima, cioè a settembre, le imprese, diciamo così, negative erano 56 su 100, sono schizzate a 87 su 100 e le condizioni di accesso al credito per un'impresa su 2 sono rimaste invariate, mentre le altre per 3 su 10 sono, quindi 27 su 100 sono peggiorate e solo il 2,8 le considera migliorate. Parleremo anche di Alitalia, dopo il via libera appunto del CDA di Alitalia a Air France, ma nel frattempo Eurofly ha chiesto di poter aprire 14 nuove rotte da Malpensa. Questo a significare che obiettivamente, al di là dell'incaponirsi sulle scelte della nuova Alitalia, forse si farebbe bene a ragionare su Lufthansa, su Eurofly, sui charter, perché da lì può arrivare il futuro di Malpensa, visto che Eurofly ha chiesto per esempio di poter avere un totale di 37 frequenze settimanali con 14 nuove rotte internazionali e intercontinentali. Domani comunque i primi 2 voli della nuova Alitalia saranno alle 6:10 da Malpensa a San Paolo del Brasile e poi un velivolo di Air One che da Palermo decollerà da Palermo per andare a Roma. Questo lo dico come nota di cronaca, ne parliamo più avanti. Adesso iniziamo con il primo tema. Molti di voi ce l'hanno chiesto in questi mesi, ma non è che oltre aver fatto cattivi investimenti le banche, i fondi, le compagnie di assicurazione, anche chi gestisce la previdenza possa aver preso in questi anni qualche rischio di troppo. Adesso non lo stia dicendo. Il tema di oggi su Sole 24 Ore non è esattamente, diciamo, quanta svalutazione prendono le casse, ma è qual è lo stato di salute delle casse. Da lì partiamo, certo che non possiamo escludere il timore sullo sfondo. 349-238-6666 per i vostri sms. Perché ne parliamo? Innanzitutto le scadenze. Il 1 gennaio è scaduto il termine entro cui le casse previdenziali dei professionisti devono presentare al Ministero del Welfare le cifre sullo stato dei loro conti. L'obbligo l'ha introdotto la finanziaria del 2007 per valutare la sostenibilità di queste casse previdenziali nel medio-lungo periodo. Ripeto, si va dai consulenti del lavoro, ai ragionieri, all'inarcassa, ai veterinari, medici, geometri, avvocati, commercialisti, farmacisti, giornalisti, notai, insomma tutti quelli che hanno casse a loro dedicate. Le casse devono dimostrare, questo con una legge di Padoa-Schioppa finanziaria 2007, ha portato da 15 a 30 anni il periodo in cui queste casse devono dimostrare di essere sostenibili, solvibili, di non avere problemi. Il parametro fondamentale, ci sono tanti parametri, è il cosiddetto saldo previdenziale. La differenza, banalmente, tra quanto entra dai contributi di tutti gli iscritti a queste casse, contributi presi, e le uscite per le prestazioni, cioè quante pensioni queste casse pagano. Alcune di queste 30 anni non li vedono, non lo vedono il panettone, da quello che abbiamo capito oggi sul Sole 24 Ore, però ne parliamo intanto con Gianni Trovati, che è quello che ha coordinato, anche il collega che ha coordinato l'inchiesta del Sole 24 Ore. Buonasera Gianni. Buonasera a voi. E dall'altra con il professor Alberto Brambilla, che è uno dei padri anche di questa riforma, ma soprattutto presidente del Nucleo di Valutazione Spesa Previdenziale al Ministero del Welfare. Buonasera professor Brambilla. Buonasera, buonasera a voi. Senza allarmi, senza allarmismi, ma con allerta, come voi avete titolato oggi nel Sole 24 Ore, come vanno le prospettive di queste casse? È vero che c'è chi prima dei 30 anni rischia di avere un saldo negativo? Sì, allora è sicuramente vero, anzi prima dei 30 anni con il saldo previdenziale, cioè quell'indicatore che citavi tu prima, quasi tutti avvertono un rosso prima appunto del periodo indicato. Naturalmente poi trattandosi di ragionamenti di previdenza bisogna ragionare a lunghissimo raggio e questo è il pregio fondamentale della norma, per cui se c'è qualche cassa, faccio il caso dei giornalisti, ma non per carità di patria, ma perché mi calza l'esempio, che vede un rosso abbastanza presto nel 2020, ma poi, sempre con i calcoli attuariali a condizioni invariate, rivede il nero, cioè rivede i conti in pareggio, perché deve superare questa curva previdenziale dei cosiddetti baby boomers della professione, dopodiché ritorna in equilibrio. La stessa cosa succede sempre a meccanismi invariati ai dottori commercialisti. Va detto però che appunto questo obbligo che tu citavi prima, con il saldo previdenziale che dà il primo indicatore, perché chiaramente una cassa per essere in equilibrio deve teoricamente ricevere sistematicamente quello che poi almeno tanto quanto guarda, poi dà in prestazione. Questo lo capisco anch'io, insomma. Esatto, poi naturalmente c'è, come dire, ci sono successivi materassi a cui appoggiarsi, a partire dal patrimonio che mobiliare o immobiliare che ogni cassa ha, ma naturalmente andare a intaccare il patrimonio deve essere una situazione molto particolare e soprattutto non può essere una situazione strutturale e continua, perché il patrimonio, come tutti i patrimoni intaccati, prima o poi finisce e non è, non è il caso. Ci può essere qualche anno in cui tu ti trovi a derogare qualche pensione in più rispetto, adesso provo a banalizzare il concetto, rispetto a quanti versamenti hai. L'importante però è che questo non diventi strutturale, quindi tu puoi toccare anche un po' del patrimonio o andare in rosso se tu vedi che la curva, la gobba, come la chiamate voi, è tutto sommato tranquilla. Non può esserci, diciamo, una cassa che inizia sistematicamente, strutturalmente, ad avere meno contributi di quante pensioni obbligate a erogare. I giornalisti nel 2020 a bocce ferme, poi? Poi abbiamo i ragionieri e nel 2023, la stessa cosa succede a ingegneri e architetti che però hanno in campo una riforma in cantiere che ora è al vaglio dei ministeri vigilanti, che sposta la scadenza al 2032. 2024 è l'anno critico, diciamo, per medici e veterinari, 2027 i geometri e poi gli avvocati 2029 e così via. Va detto che appunto proprio il ragionamento che facevi tu, il ragionamento complesso sul futuro, è il pregio fondamentale del nuovo ordinamento e ha spinto già molti a mettere in campo riforme più o meno profonde che sono attualmente in cantiere, che sono ora appunto al vaglio dei ministeri vigilanti. Quasi tutte le casse l'hanno fatto, dottori commercialisti e ragionieri l'hanno già messa in, in campo, mentre avvocati, consulenti, geometri, ingegneri, architetti e così via, notai, ne stanno discutendo, hanno previsto delle proposte che hanno sottoposto ai ministeri. Quello che c'è da dire che quasi tutte queste riforme, citiamo subito le eccezioni, giornalisti, commercialisti e ragionieri, tutti gli altri, pur riformando i termini, aumentando i contributi e così via, non intaccano il principio del meccanismo retributivo, quello che lega, meccanismo più generoso, certo, quello, il vecchio meccanismo che valeva anche per tutti gli altri, che legava l'assegno della pensione a una percentuale, diciamo, sulla retribuzione. Scelgono di mantenersi fedeli il più possibile a questo meccanismo retributivo e solo giornalisti, commercialisti e ragionieri hanno invece optato per il sistema contributivo, che cioè lega l'assegno che tu ricevi al monte dei contributi, al numero che di hai, anni che hai versato, che è un meccanismo molto meno generoso del primo. Tanto io e Gianni Trovati stiamo ragionando di accademia, perché mancandoci ancora qualche decina d'anni alla pensione, chissà cosa succederà da qua al 2020-2030, però è grazie a questa, cioè, distanza dal tema che possiamo affrontarlo anche in maniera così tranquilla. Allora, professor Brambilla, le ho detto nel presentarla che lei è uno dei personaggi che più ha contribuito anche a questa riforma, l'ha seguita. Vorrei capire, stiamo tranquilli, cioè allerta, non è allarme, non è pericolo, stiamo tranquilli, occorre che le varie casse, se ho ben capito il ragionamento di Gianni Trovati, si muovano secondo, diciamo, il solco tracciato dalla riforma e quindi mettono in campo i vari strumenti senza arrivare al punto di criticità. Ma guardi, assolutamente sì. Intanto una precisazione. Dal momento della privatizzazione al momento in cui abbiamo cominciato a fare questi ragionamenti, certamente la situazione delle casse dei professionisti, se l'andiamo a vedere nel 1994, è certamente migliorata. Quindi nel complesso il giudizio che è stato formulato qualche tempo fa dai ministeri vigilanti rispetto alle casse di previdenza cosiddette privatizzate, cioè dei liberi professionisti, cioè di coloro che hanno un albo a cui essere iscritti, è sicuramente migliore di quella che c'era nel 94, cioè prima della privatizzazione. Detto questo, è un po' quello che stavate dicendo voi, cioè il fatto di avere bilanci a 30 anni e di avere l'obbligo, da parte ovviamente di queste casse, di evidenziare tutti questi passaggi ha semplicemente un solo significato, e cioè è quello che abbiamo cercato di spiegare proprio in testa a questo decreto. Se io oggi faccio il giornalista e mi affaccio oggi al mercato del lavoro, se tutto va bene andrò in pensione nel 2049. Nel 2049 la cassa, tenuto conto dei saldi previdenziali, cioè la differenza tra i contributi che entrano ogni anno e le prestazioni che vengono pagate, con il reddito da patrimonio e il patrimonio, nel 2049 ci sarà ancora o no? Perché siccome il sistema è a ripartizione, cioè vengono, lo spiega bene la Fornero nell'articolo del 24 ore, siccome il sistema è che con i contributi di oggi pago le pensioni, è evidente che il grosso obbligo è il patto intergenerazionale, cioè i giovani che cominciano oggi a versare i contributi, noi gli dobbiamo garantire che nel 2049 ci saranno ancora le casse e avranno anche un patrimonio. Cioè io sto pagando la pensione al mio direttore, comunque esso sia, esatto, o vice direttore, e il giovane giornalista, facciamo un esempio di giornalista, vale per tutti gli altri, ci mancherebbe, certo, la pagherà a me più avanti. Questo patto non può essere, deve essere un vincolo, deve essere un obbligo, non può essere messo in discussione. Da lì i 30 anni anche due manovre. La prima, che abbiamo cominciato a dire che i 5 anni di annualità di pensione, che finora le casse superavano ampiamente, ma erano 5 anni di annualità 94, quindi fuori da ogni tempo, non sono più un parametro, come dire, indispensabile per la valutazione della sostenibilità. Ma per noi il parametro indispensabile per la sostenibilità è quando il saldo previdenziale si presenta negativo, cioè le uscite sono maggiori delle entrate, se questa, come dicevate voi, questo saldo negativo è temporaneo perché escono i baby boomers che sono entrati in massa negli anni 60, 65, 70, e se poi si riprende, e se invece è un nero, quanto è? Perché l'esempio che facevamo è: se a me entrano 80 milioni di contributi e me ne escono 85 di prestazioni e ho un patrimonio da 1 miliardo, ho tutti euro ovviamente, ho tutto il tempo per poter mettere in cantiere le riforme. Se viceversa io ho entrate per 80 e spese per 120, che poi diventano 130, 150, 160, e il patrimonio è 1 miliardo, chiaro, io so che nell'arco di 10 anni la cassa non ci sarà più. È esattamente quello che è successo al Fondo Nazionale degli Elettrici, al Fondo Nazionale dei Telefonici, al Fondo degli Autoferrotranvieri, Ferrovie dello Stato e ultimo l'INPDAI. Quindi sono storie che noi in Italia purtroppo, abbiamo già visto. Purtroppo già conosciamo. Dopo il meteo e la pubblicità, io avrei bisogno di sapere un altro aspetto, visto che ci stanno scrivendo, come immaginabile, come correttamente prevedibile, anche persone che non appartengono alle casse, ossia a quei fondi previdenziali delle categorie, di chi ha un ordine alle spalle. Io vorrei capire, professor Brambilla, allargando anche l'orizzonte, visto che lei conosce bene i conti, non è che ci può raccontare tutto, questo lo capisco, però di quello che ci può raccontare, quanti geni della finanza, oltre a Wall Street e alla City di Londra, hanno consigliato alle casse di previdenza, in qualunque forma, diciamo, a soggetti che hanno questo ruolo, di investire in prodotti che rendevano tanto, ma poi si è scoperto essere di sabbia, tossici, di carta? Cioè, lei ha notato in una sua, diciamo, in un suo monitoraggio esposizioni un po' strane verso obbligazioni, prodotti derivati così che potrebbero far vacillare le casse, perché poi vorrei arrivare anche a una proposta, non dico di legge, non ci permetteremo mai, ma insomma di un tetto all'autonomia di queste casse. ...17:34, dunque, professor Brambilla, per quello che ci può dire, insomma, quanti geni della finanza hanno consigliato, oltre che ai comuni, le province, le regioni italiane, anche alle casse di previdenza, di consenso lato, ai fondi, insomma, di categoria, di investire in prodotti a rischio? Ma penso che ci sia stato, come per le fondazioni bancarie, come per tutti i soggetti investitori istituzionali, un grande afflusso di geni che hanno offerto un po' di tutto. L'analisi che è stata fatta assieme alla Direzione Generale della Previdenza Sociale del Ministero del Lavoro ha dato questi esiti, diciamo, di titoli di difficile recuperabilità, come i titoli delle banche irlandesi oppure i titoli della Lehman, rappresentano nei portafogli circa lo 0,35-0,40 di tutti i portafogli, quindi una cifra che è molto molto in linea con quella che hanno dichiarato anche le compagnie di assicurazione. Per quanto riguarda invece i titoli strutturati, questi rappresentano circa l'11,5% del portafoglio di tutte le casse, con però una quantità intorno al 60% che ha il capitale garantito, e salvo casi particolari di durata fino al 2020-2022, generalmente hanno tutti una durata che non eccede gli 8 anni. Quindi da questo punto di vista siamo, come dire, sufficientemente tranquilli. Va specificato che questo riguarda solo le casse di previdenza privatizzate, perché invece per tutti i fondi pensione tipo Cometa, Fonchim, cioè tutti questi fondi di natura complementare, quelli che sono stati regolati dall'ultima legge, la 252 del 2005, per questi c'è invece in vigore un limite di investimento preciso che non consente l'acquisto di fondi di fondi hedge, di fondi hedge, di strutturati, eccetera, per cui lì dentro abbiamo delle perdite, perché la parte investita in azioni ha subito le perdite dei mercati, ma diciamo che c'era proprio l'impossibilità per legge di investire in titoli pericolosi. Quindi direi che il quadro completo che è emerso dai fondi pensione è abbastanza tranquillizzante, salvo le perdite, voglio dire, dei mercati azionari, mentre sono andati molto meglio gli obbligazionari. Per quanto riguarda le casse, la situazione ha denotato, diciamo, una buona condotta degli attuali gestori, perché i casi proprio eclatanti sono veramente pochi e nella media siamo abbastanza, abbastanza pochi. Questo ci tranquillizza. Io ho una proposta per lei, però rapidamente. Gianni Trovati. Sì, sempre su questo tema c'è da segnalare una evoluzione che comunque i portafogli delle casse hanno avuto molto prepotentemente in direzione delle azioni dei titoli, cioè noi abbiamo misurato, fatto 100 il portafoglio di ogni cassa, quanti sono immobili e quanto è patrimonio immobiliare, cioè titoli, e c'è stata un'evoluzione enorme a favore di azioni e titoli in generale contro i più tranquilli, diciamo così, immobili, che invece hanno perso molto molto molto terreno. Tra l'altro anche l'economista Elsa Fornero, nostro ospite già molte altre volte, diceva attenzione, perché insomma, alcune di queste piccole casse senza con i conti meno in equilibrio potrebbero trasformarsi in piccole Alitalia. Ma insomma, io avevo una proposta, immagino molto stupida, professor Brambilla, però volevo capire anche perché della stupidità. Cioè, non si può per legge obbligare le casse di previdenza e anche i fondi, sono diversi già i regolamenti, però insomma, e i fondi di previdenza complementare, non so, ad avere un rendimento che non vada oltre il 2% dell'inflazione programmata. Non so, dargli un tetto, cioè ci sono già dei tetti sul PIL su 5 anni, ma insomma un tetto molto chiaro, e obbligare comunque a non prendere più, come in certi fondi comuni di investimento, no? Quelli più tranquilli hanno l'obbligo di non investire oltre il 10% in prodotti azionari, in modo che io sono tranquillo, quelli investono in obbligazioni, in T-bond, in bund, guadagnerò poco, ma tutti i soldi che ho versato, recuperando l'inflazione perlomeno nominale, li riavrò? Allora, Per quanto riguarda i fondi di previdenza complementare, esiste già il decreto 703 che non impone dei tetti di rendimento, ma impone dei limiti quantitativi e qualitativi all'investimento. I limiti azionari sono abbastanza laschi e per il resto però è molto molto ben congegnato. Quindi dal punto di vista dei fondi pensione complementari, che sono un po' il grosso adesso delle attività, diciamo che questi limiti hanno funzionato bene in questa crisi, con l'eccezione appunto che dicevo dei limiti sugli investimenti azionari nei mercati regolamentati, che essendo molto molto ampi hanno consentito ad alcuni di avere delle linee con oltre il 50% di titoli azionari e quindi con quello che potete immaginare di perdita. Per quanto riguarda le casse di previdenza privatizzate, in questo momento si sta ragionando sull'applicazione di medesimi limiti e in più a tutte e due le categorie di fondi si sta ragionando, nel senso di dire la quantità di rischio, posto che i rischi debbano essere limitati perché le pensioni debbono, come dire, aumentare come tasso di rendimento al massimo la media quinquennale del PIL o il tasso tecnico del 4% o il livello di inflazione. Quindi è inutile andare a investire in prodotti che promettono il 12-15% di rendimento e poi magari perdono il 20%. Quindi, fermo restando che bisogna investire in cose sicure, tranquille, in beni reali, anche per queste casse sicuramente verrà applicato un modello di limiti di investimento sul modello della direttiva EPAP europea, che prevede sia limiti qualitativi che quantitativi. Quindi la vostra idea, la vostra proposta è molto sensata, questo nell'interesse e nella tutela degli iscritti, dei gestori delle casse e anche in fin dei conti dei giovani, perché tutte le riforme delle pensioni che abbiamo fatto finora vanno a tutelare i giovani, che sono quelli che in questo momento sono meno tutelati perché prenderanno la pensione tra 35 e 40 anni. Essendo una proposta sensata, dubito che diventerà una proposta di legge. No, scherzo. Speriamo che invece venga raccolta. Già ne trovate un commento, perché nel frattempo vedo che è iniziata la conferenza stampa di Roberto Colaninno, il quale ha appena detto la partecipazione con Air France è regolata e l'autonomia gestionale di Alitalia sarà totale nei confronti anche dell'alleato Air France. Questo è l'altro grosso tema che tratteremo in diretta. Gianni. Sì, il commento finale è che siamo solo all'inizio del processo. Questo obbligo di mandare i bilanci tecnici è molto importante sul fronte della trasparenza, della confrontabilità, delle performance e delle richieste cassa per cassa, e che quindi il processo riformatore, che noi abbiamo visto essere ancora abbastanza timido, soprattutto in alcuni versanti, è destinato a crescere e ad approfondirsi nei prossimi anni. Per cui insomma, qualcosa non è di buono c'è e ha funzionato, a giudicare anche dall'inchiesta del Sole 24 Ore, e vedi bene che poi quando si mettono i paletti, penso al 2007, poi questo come era la situazione nel 94, lo ricordava anche prima Brambilla, i miglioramenti ci sono, e se tutto va bene, qui cerchiamo appunto di fare gesti scaramantici, anche questa crisi terribile, devastante sul fronte finanziario avrà un impatto minore sulle casse previdenziali grazie ai paletti messi. Grazie ad Alberto Brambilla, presidente del Nucleo Valutazione Spesa Previdenziale del Ministero del Welfare, a Gianni Trovati del Sole 24 Ore. Adesso la borsa. Allora, la borsa ha perso l'1% sul MIBTEL, meno 0,91% sull'S&P MIB. Ancora una volta Milano va meglio però di altre borse europee, so che con un segno negativo non vuol dire molto, però Parigi meno 1,6%, Francoforte meno 1,3%, Londra meno 0,5%, l'America perde un punto percentuale secco sul Dow Jones e l'1,7% sul Nasdaq. Euro nettamente più debole rispetto al finale d'anno, a 1,3360, e anche nei confronti della sterlina siamo tornati sotto quota 90 centesimi, 89,87. Paolo Paronetto, Radio Core, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Effetto De Meo su Fiat, dopo 7 anni ha lasciato, responsabile del marchio Alfa e anche del marketing di gruppo, però mi sembra che anche da Detroit, dove è in corso il salone, ne parleremo più avanti, non arrivino ottime notizie. Fiat meno 3,45%, ST Microelectronics meno 5%, Mediaset meno 4,20%, Prysmian meno 3%. E 90 Fiat ed ST Microelectronics. Sì, per Fiat oggi è stata davvero una seduta a due facce. Il titolo in mattinata è stato tra i migliori dell'S&P MIB, arrivando a guadagnare anche oltre il 3%. Nel pomeriggio tuttavia la situazione si è capovolta, perché il titolo è girato in rosso, risentendo appunto delle prime indiscrezioni poi confermate sull'addio di Luca De Meo al gruppo. De Meo è stato uno degli artefici del rilancio dell'immagine del gruppo Fiat nell'era Marzone degli ultimi anni, e quindi il suo addio un po' a sorpresa ha colto appunto di sorpresa il mercato, che ha risentito negativamente della notizia. C'è da dire tuttavia che il titolo aveva già iniziato a perdere terreno con l'apertura di Wall Street, dato che i titoli della controllata statunitense CNH in questo momento stanno perdendo oltre il 9% e già dall'apertura cedevano circa l'8%. In mattinata invece Fiat aveva guadagnato grazie a un buy di Goldman Sachs, che tuttavia è stato inutile alla fine della seduta. Per quanto riguarda invece ST Microelectronics, è stata un'altra giornata difficile, il titolo ha perso quasi il 5%. Da tre sedute ormai ST risente del profit warning lanciato dal colosso statunitense Intel la scorsa settimana. Intel ha ridotto del 23% le stime del fatturato per il quarto trimestre, quindi tutto il comparto mondiale ne risente. E tra, per quanto riguarda i giudizi degli analisti, oggi è arrivato anche il sell da parte di UBS, che quindi ha abbassato la raccomandazione sul titolo, che ne ha risentito chiudendo in coda l'S&P MIB. Allora, sì, devo dire che poi tra i bancari invece la situazione è più mista oggi, perché bancari assicurativi, Unipol va bene più 2,5, e Intesa anche lo 0,80%, così come Alleanza guadagna lo 0,60%, la Banca Popolare di Milano lo 0,60% anch'essa, Telecom più 0,4%, Terna più 1,5%, Buzzi Unicem più 1,5% e l'Automatica più 0,7%. Chi perde invece, oltre ai titoli che vi ho già citato, Italcementi meno 2,7%, Monodori meno 2,5% come Atlantia, Eni meno 2,3% come L'Espresso e Saipem, il 2% lo perde Banco Popolare, Finmeccanica meno 1,90% come Bulgari e A2A S.P.A. e anche Autogrill, l'1,80% il calo di Tenaris, Pirelli, Enel meno 1,7%, Mediolanum, Geox e Fondiaria meno 1,3%. Parmalat, scusatemi, Impregilo e lo 0,70 Parmalat. Di nuovo in diretta per commentare la borsa con Sebastiano Berisoni, in collegamento con noi Paolo Paronetto. Dicevamo, Paolo, i bancari non male oggi, ma qualcosa si muove sul settore, di nuovo anche le fondazioni. E va detto e va ricordato quanto scrivono anche alcuni ascoltatori al 349-238-6666. Da inizio anno stiamo calmi, nessun entusiasmo, ci mancherebbe, chi mai l'ha avuto in questi giorni, ma da inizio anno Milano resta positiva di un punto percentuale. Troppo presto per dire se si è arrivati al giro di boa sui mercati finanziari, sicuramente sì, anche perché... Però almeno segnaliamo che per ora la battuta di arresto di cali continui che hanno portato la borsa l'anno scorso a perdere il 50% del suo valore c'è stata. Chiudo la parentesi, i bancari e anche gli energetici. Sì, come ricordavi tu, soprattutto per i bancari dall'inizio dell'anno, o comunque dai finanziari, il recupero è proprio il più evidente. Del resto sono stati più penalizzati negli ultimi mesi del 2008, ad esempio Intesa San Paolo e BPM dall'inizio dell'anno guadagnano ancora quasi il 10%, oltre il 10% lo guadagna Unipol e addirittura il Banco Popolare, che era stato proprio tra i più colpiti, dal 1 gennaio, anzi dal 2 gennaio, guadagna oltre il 23%. Quindi i titoli mostrano effettivamente segni di recupero. In particolare oggi la Banca Popolare di Milano è stata positiva per tutta la seduta dopo le indicazioni sui conti del 2008 fornite dalla lettera all'investitore pubblicata ieri dal Sole 24 Ore. Secondo queste indicazioni fornite dal presidente Roberto Mazzotti e dal direttore generale Fiorenzo Dalu, l'anno dovrebbe essersi chiuso con un margine di interesse in crescita di quasi il 2%. Mazzotti del resto ha anche ricordato la solidità dell'istituto da un punto di vista patrimoniale e ha annunciato annunciato che la banca sta lavorando a una cartolarizzazione di mutui per aumentare la liquidità, come fatto da altri istituti finanziari italiani. Per quanto riguarda gli energetici, oggi la seduta è stata difficile. Eni ha chiuso in calo del 2,34% a 17,12 euro, ma hanno perso terreno anche Enel, meno 1,79, e in generale tutto il comparto, che risente dello scivolone pesante del prezzo del petrolio. Il WTI in questo momento sta perdendo oltre il 7% ed è sceso sotto i 38 dollari al barile. La debolezza del petrolio del resto ha portato molti analisti a rivedere al ribasso le stime di utile per i titoli del comparto. In particolare oggi su Eni e JP Morgan ha tagliato le stime di utile per azione del 30% per quanto riguarda il 2009 e del 31% per il 2010. Grazie Paolo Paranetto, Radio Corriere sulle 24 ore. I migliori e i peggiori in assoluto oggi, Bastoggi, realizzi dopo interesse tutto di crescita meno 18%, Vivendi meno 8,7%, GDF Suez meno 7,5%, il migliore invece Fortis più 13,8%, Euroflai più 11%, Irce più 22%, Fidia più 20%. Adesso restiamo in tema di investimento, dell'investimento più sicuro che c'è perlomeno dentro i confini nazionali, quello in bot. È talmente sicuro, lo vogliono talmente tutti, che il rendimento è calato al minimo storico da quando esistono i buoni obbligazionari del Tesoro. Eh sì, perché nell'asta sul rendimento dei bot a livello annuale è sceso all'1,84%, il minimo storico precedente risaliva al giugno del 2003, parliamo di rendimento lordo in un anno, cioè se io metto 1000 euro mi rendono in bot a un anno l'1,84% lordi. Tra l'altro in un'asta che ha visto anche una richiesta fortissima, 20 miliardi contro i 13 offerti dal Tesoro. 13 trimestrali e 7 tra l'altro annuali. Nel frattempo, in questo primo inizio del 2009, vi è stata una vera e propria raffica di aste dei paesi euro per circa 20 miliardi di euro di obbligazioni, di titoli dello Stato, scusatemi, già collocati. Martedì scorso la Germania con un'obbligazione, un bund decennale, però con un'accoglienza fredda. E, tra l'altro ha dovuto battere in ritirata, ha collocato 4 miliardi a Germania contro i 6 in offerta. Vorrei tenere assieme due cose con il vicepresidente di Credit Suisse Lugano, dottor Davide Sacchetti, buonasera. Buonasera. Banalmente, la gente, i risparmiatori, i fondi, insomma, chi li vuole i titoli di Stato o no? Perché non capiamo i segnali che arrivano. Il bot italiano va così a ruba che il rendimento scende ai minimi storici. La settimana scorsa invece aveva scricchiolato il Bund tedesco. Alcuni gufi dicono: attenzione, vedrete, sarà un anno molto difficile perché tutti gli stati avranno bisogno di raccogliere soldi sul mercato, e però andranno bene, sono gli stati più affidabili. Allora, direi che il successo dell'emissione dei bot e quindi con un rendimento decisamente basso di oggi deriva dal fatto anche che il 15, quindi tra un paio di giorni, ci sarà la decisione del taglio dei tassi in Europa. Noi stimiamo un taglio dei tassi che ci sarà tra un 25 o 50 punti base, quindi questo il prezzo incorporato, quindi il rendimento dei bot di oggi già sconta un po' questa previsione. Per quanto riguarda invece l'insuccesso dei titoli di Stato tedeschi, che sono sicuramente considerati da tutto il mondo più sicuri dei titoli italiani, forse questo insuccesso deriva più dalla lunga scadenza, in quanto ad oggi pochi se la sentono di andare a acquistare un'obbligazione, seppur garantita dallo Stato tedesco, quindi estremamente sicura, ma con un orizzonte temporale così importante. È più facile e tendenzialmente si sbaglia forse meno ad andare a investire su un titolo corto, piuttosto che posizionarsi su delle scadenze così lunghe. Ecco, ho spiegato perché, diciamo, dello scarso appeal poco sexy giudicati i Bund tedeschi a 10 anni. Alcuni di voi ci chiedono quanto rendono i vari titoli. Prendiamo quelle 10 anni. L'ultima asta in America è il 2,49%, lordo per quello che riguarda la Gran Bretagna invece il 3,5%, Francia 3,6%, Germania 3,2%, Italia 4,39%. Il famoso spread, la differenza tra quanto rende, no, quanto costa lo Stato italiano trovare soldi, quanto costa lo Stato tedesco. Quello spread lì dice e misura le diverse affidabilità. Poi c'è la Grecia col 5,30, la Spagna col 4%. Le vostre previsioni complessivamente date sono di una difficoltà sul mercato per il 2009, visto che tanti stati che stanno aiutando con provvedimenti da decine e decine di miliardi, Germania, Gran Bretagna, anche la Spagna, in parte la Francia, l'Italia meno, hanno bisogno poi di trovarli questi soldi sul mercato e offriranno obbligazioni. Ci sarà una specie di così cannibalismo tra obbligazioni di Stato oppure no? Allora, diciamo che l'investitore che va a investire su dei titoli di Stato del governo tedesco tendenzialmente non è proprio lo stesso che va a investire sui titoli di Stato italiani o spagnoli, in quanto chi va a investire su questi ultimi due tendenzialmente cerca una garanzia statale con un rating che poi bisogna valutare la solidità di questi rating, ma sicuramente inferiore a un governo tedesco e un governo francese. Quindi, oltre ad andare su uno statale, cerco anche un rendimento in più, ritenendo che facendo parte dell'Europa tendenzialmente i problemi vengono risolti o in modo individuale dai singoli paesi, ma comunque in modo collettivo a livello europeo. Quindi vado a speculare che magari paesi con più difficoltà, tipo Spagna, Grecia, Italia, comunque all'interno dell'Europa riescano a rispettare i parametri. L'investitore istituzionale tendenzialmente in un momento del genere va a posizionarsi su titoli tedeschi e francesi, il piccolo risparmiatore o il risparmiatore italiano tendenzialmente si posiziona sui propri titoli di Stato, probabilmente anche con essendo conscio che se dovesse fallire, saltare o avere dei grossi problemi lo Stato italiano, quello sì, della perdita del rendimento, diciamo, del botto o del proprio sarebbe capitale, l'ultimo dei problemi. I suoi problemi, diciamo che se ti si schianta la macchina non è che il mancato funzionamento dell'accendisigari ti preoccupi così tanto, ecco. Per cui il ragionamento è: io investo in bot italiani perché ho i soldi in Italia, se salta per l'Italia a quel punto il danno è ben superiore al rischio sull'investimento. Esattamente, per l'investitore quello che deve andare sicuramente all'interno di questi, sì, paesi europei, andare a selezionare, è il discorso della duration, cioè quanti anni lo compri. Esatto, per quanti anni lo compro, e soprattutto se io compro un decennale probabilmente è perché faccio delle previsioni di una recessione importante, forse di una stagnazione, in cui comunque quel rendimento che giustamente diceva lei intorno al 3% è molto di più di zero. Ok, perché lì però scatta anche una specie di analisi che ognuno di noi fa sulla situazione. Chi dice già dal 2010 ne saremo fuori, chi dice no, durerà di più. Grazie per ora al vicepresidente di Credit Suisse Lugano, Davide Sacchetti. Minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Parliamo di trasporto adesso, nel doppio senso delle quattro ruote, Salone dell'Auto di Detroit e di Alitalia, perché vi faremo ascoltare i passaggi principali della conferenza stampa di Roberto Colaninno e Rocco Sabelli, che ha presentato la nuova Alitalia, domani i voli operativi, e anche il ruolo di Air France, che è il partner a questo punto, visto che il CDA, il Consiglio di Amministrazione della nuova Alitalia, ha scelto Air France come partner. Andiamo rapidi sul primo tema, e quindi Detroit si è aperto ieri il Salone dell'Auto sotto un cielo, diciamo metaforicamente, plumbeo, grigio, fatto di tutti i segni meno, soprattutto per i colossi americani. Milioni di auto in meno, quelle vendute in America nel 2008 rispetto al 2007. Per dare un'idea, è come se fosse scomparso l'intero mercato tedesco. meno 18% è il dato percentuale, siamo ai minimi in America dal 1992, in un settore che, l'abbiamo detto già altre volte, impiega negli Stati Uniti, compreso l'indotto, oltre 3 milioni di persone. Poi la raffica di questa crisi, chiuse almeno 600 concessionarie negli Stati Uniti, il 10% solo nel Michigan, oltre 200.000 dipendenti hanno perso il lavoro dell'industria automobilistica, quindi General Motors, Ford e Chrysler, compreso l'indotto, e nei primi tre mesi di quest'anno General Motors prevede di ridurre della metà, meno 50% la produzione, Ford meno 40%. E poi il prestito da quasi 14 miliardi di dollari concesso in gran parte a General Motors e Chrysler, altri 4 miliardi dovrebbero arrivare a febbraio. Non va meglio in Giappone, meno 6,5%, siamo ai minimi come mercato, come vendite di auto da 34 anni, e in Europa un meno 8% il dato complessivo delle matricolazioni. C'è solo una vettura a marchio italiano in questo salone, è la Maserati 4 porte Sport GTS, immagino per pochi eletti. Sono assenti anche altri grossi nomi, Mitsubishi, la Nissan, la Suzuki, Land Rover, poi marchi di nicchia come Porsche, Ferrari e Rolls Royce. È invece presente la cinese BYD e Brilliance, partner di BMW. Andrea Malan in collegamento con noi da Detroit, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, Rick Wagoner, numero uno di General Motors, ha detto: noi saremo capaci di rinnovarci, con oggi inizia un nuovo mondo per l'auto, le auto piccole e anche verdi in America. Ascoltiamo Wagoner. Abbiamo compiuto molti progressi e stiamo intervenendo su diversi settori, per alcuni dei quali abbiamo bisogno di lavorare con importanti controparti, dagli obbligazionisti ai sindacati. C'è molto lavoro da fare in poco tempo, ci sono scadenze da rispettare, ma posso dire a questo punto che abbiamo imboccato la direzione giusta per compiere importanti progressi. Ci aspettano importanti scadenze che devono essere rispettate. A metà febbraio ci sarà un primo esame, poi il termine decisivo del 31 marzo. Sul prestito ponte posso dire che noi abbiamo avanzato una richiesta di fondi al Tesoro e ci sono stati dati. A fine marzo presenteremo un piano e solo allora potremo avere le idee più chiare sul lungo termine. Se mi si domanda se torneremo a chiedere nuovi fondi, non posso fare previsioni. Molto dipenderà da come si svilupperà il piano e dalle condizioni del mercato in quel momento. Direi quindi di lasciar parlare i numeri al momento opportuno, invece di tirare a indovinare. Allora Andrea, è così, gli americani e soprattutto gli americani stanno iniziando a fare auto più piccole, meno inquinanti, più verdi, come vuole lo stesso Barack Obama? Beh, diciamo che la parola d'ordine qua al salone è sicuramente puntare sull'ecologia, dove ecologia quest'anno vuol dire auto elettrica e auto ibrida. È lecito qualche dubbio sul significato sostanziale di questa cosa oppure sull'ennesima idea di marketing? Possiamo ricordare che l'anno scorso la parola d'ordine verde era l'etanolo, di cui quest'anno non si sente assolutamente più parlare. È vero peraltro che molti progressi nel campo delle batterie sono stati fatti e quindi tutti i costruttori, non solo quelli americani, sono forse più vicini alla produzione di auto elettriche effettivamente utilizzabili di quanto non fossero in precedenza, quindi ha più senso un maggiore accento su questo aspetto. Tra l'altro l'annuncio più impressionante è peraltro stato fatto proprio dalla BYD che tu hai citato prima, l'azienda cinese, che ha appena annunciato che l'anno prossimo dovrebbe mettere su strada un'auto interamente elettrica, quindi non ibrida, solo batterie, con un'autonomia di 240 miglia, ovvero 400 chilometri, che costituirebbe, se verificata, un avanzamento colossale e renderebbe quindi l'auto elettrica utilizzabile anche in contesti non solamente urbani. Ovviamente l'annuncio è tutto da verificare, ma ricordiamo che nella BYD ha investito una somma consistente anche una persona abbastanza saggia come Warren Buffett. E quindi o si danno una mossa anche gli americani, o se no arrivano prima i cinesi, semplifico un po' brutalmente. Toyota, tu hai appena partecipato alla conferenza stampa di Toyota, se ho ben capito. Novità sì, sul fronte Toyota, di... Toyota ha presentato la prossima versione della Prius, che di fatto, come sappiamo, l'unica auto ibrida che finora nella storia abbia mai avuto vendite significative. L'obiettivo, ha detto, è di venderne annualmente 180.000. La Prius arriverà negli Stati Uniti e in Giappone questa primavera e poi successivamente verrà lanciata sugli altri mercati. Non è molto diversa nell'estetica dal modello precedente, ma la Toyota assicura che ha performance migliori dal punto di vista sostanziale. La sfida per i modelli ibridi ed elettrici è soprattutto adesso anche contro il basso prezzo del carburante. Paradossalmente, dei discorsi che potevano essere perfettamente adeguati con una benzina a $4 al gallone, cioè molto cara per i livelli americani, lo sono meno quando adesso la benzina costa tra $1.50 e $2, quindi costa poche decine di centesimi di euro al litro. Il rischio è che il consumatore americano ritorni a preferire i SUV o le berline comunque grandi di prima, quei motori V6 o V8 che sono tipici americani, e che quindi per convincerli ad acquistare vetture verdi siano necessari dei forti incentivi o da parte delle case vendendo in perdita, cosa che gli americani in questo momento non sono in grado di fare, oppure da parte del governo. E infatti gli americani ieri hanno chiesto anche all'amministrazione Obama, che sta per insediarsi, degli incentivi in varie forme ancora da definire, però sicuramente ci vorranno. Sì, anche perché siamo abbastanza tranquilli sul fatto che il petrolio tornerà poi a crescere. Adesso è un periodo così, quando l'economia ripartirà rivedremo purtroppo altri e alti prezzi, e le scelte comunque sul verde e sul auto a minor impatto ambientale sono scelte strategiche, non è che possono essere fatte sulla base delle quotazioni day by day del petrolio. Grazie Andrea Malani, in collegamento con noi da Detroit. Allora, più di 10 anni che se ne parla, da domani sarà una realtà. L'Italia, quello che ne resta, quella Good Company, con tutti i problemi che ha avuto questa trattativa, con tutti i costi, le polemiche, le critiche anche di carattere politico, ma da domani gli aerei che decolleranno con la scritta Alitalia apparterranno a una compagnia privata. Campania festa, perché non se ne poteva veramente più di questa trattativa. E allora lasciateci anche scherzare, i costi ci sono per i contribuenti, li abbiamo ricordati, il commissario Fantozzi ha tutta la parte bad, la parte diciamo da cedere della compagnia. C'è costata tantissima questa compagnia, tantissima, ma almeno da domani sarà gestita da privati, quindi anche tutti i costi, e ci auguriamo per loro i guadagni, saranno di carattere privato, non sarà più direttamente scaricabile sui contribuenti la nuova Alitalia. Campania festa, speriamo poi di non occuparcene più se non per notizie di altro genere. Vincenzo Miglietta ha seguito la conferenza stampa di Roberto Colaninno e Rocco Sabelli, e quindi dei numeri due della nuova Alitalia, il presidente della CAI Colaninno. Vincenzo, buonasera. Buonasera Sebastiano, buonasera ai nostri ascoltatori. Allora, primo tema, Air France. Confermato oggi, il Consiglio di amministrazione di Alitalia ha accettato l'offerta di Air France, che acquisterà un quarto della nuova Alitalia, il 25%, lo pagherà 322 milioni. In che termini e che tipo di accordo è? Andando per ordine, quindi con l'intesa con Air France, l'accordo raggiunto fra l'Italia e la compagnia franco-olandese prevede la sottoscrizione da parte del gruppo transalpino del 25% del capitale di Alitalia a fronte di un investimento di 322 milioni di euro. Si prevede che per 4 anni eventuali transazioni di azioni possono avvenire solamente nell'ambito della cordata italiana, questo per quanto riguarda il capitale in mano agli imprenditori italiani. La quota e la partecipazione di Air France sarà logicamente minoritaria, tutto il potere decisionale sarà in mano quindi agli imprenditori che hanno dato vita alla nuova Alitalia. Ma il presidente Colaninno ha riassunto proprio i 3 punti dell'intesa, le caratteristiche di questo accordo. Possiamo ascoltare Colaninno. L'accordo si sviluppa su 3 contratti. Il primo è quello dell'investimento, cioè della partecipazione. Stabilisce i termini dell'investimento appunto di Air France. Il secondo è le modifiche statutarie conseguenti all'entrata in Alitalia di Air France, e il terzo, che ritengo il più importante dei primi due, è il partnership agreement, cioè l'accordo industriale. Devo dire però alcuni punti fondamentali che sono al di là dell'accordo industriale e dell'investimento molto significativi, e cioè il primo, l'assoluta autonomia gestionale di Alitalia rispetto ad Air France. Due, la conferma del lock-up, cioè per 4 anni i soci italiani potranno soltanto vendere le proprie azioni all'interno dei soci italiani. Il terzo punto è una norma di riscatto e di recesso nel caso le sinergie concordate non venissero raggiunte, e il secondo è il riscatto nel caso all'Italia non mantenga alcune caratteristiche fondamentali come quelle della licenza, per esempio, del volo. Questi dunque i punti dell'intesa. Altro capitolo fondamentale è la strategia circa gli scali, il ruolo di Malpensa e Fiumicino. Lo scalo lombardo sarà il punto di riferimento per le principali rotte intercontinentali. Le rotte, ha annunciato il presidente Colaninno, saliranno a Malpensa da 3 a 14. Questo ha spiegato Colaninno, sempre che Linate abbia una razionalizzazione del suo traffico. Fiumicino sarà dedicato al Mediterraneo e alle rotte per il Sud America. Ma sentiamo ancora Colaninno. Confermo la nostra priorità strategica sull'aeroporto di Malpensa, di raggiungere un accordo su una razionalizzazione del traffico aereo su Linate. Confermo che in questa logica l'impegno di Alitalia e di Air France è di concentrare le rotte intercontinentali sull'aeroporto di Malpensa. Sull'aeroporto di Fiumicino c'è l'impegno di Alitalia e di Air France di massimizzare in termini di rapporto e in termini di efficienza e di opportunità la presenza del Mediterraneo, di tutte le rotte verso il Mediterraneo, verso l'estremo oriente e il Sud America. Sostanzialmente l'accordo poggia sulla costruzione di 3 grandi hub europei, Amsterdam, Parigi, e uno che sceglierà l'Alitalia e che noi abbiamo indicato sempre a certe condizioni, in quello di Milano. Confermiamo la piena disponibilità a discutere con le autorità dell'aeroporto di Linate per raggiungere un accordo al più presto per offrire i nostri servizi nell'area dell'Italia del Nord e della pianura padana, che per noi sono strategici al nostro piano e soprattutto al nostro obiettivo. Infine, i tormentati rapporti tra la nuova Alitalia e i lavoratori, Colaninno ha voluto rassicurare così i dipendenti in cassa integrazione. Ascoltiamo il Presidente su questo punto. Vogliamo anche, consapevoli che il patrimonio più importante di una società sono le persone che lavorano nella società, essere coerenti col nostro spirito e con la nostra etica attraverso una gestione delle relazioni industriali che porti alla soddisfazione di quelli che ci lavorano e soprattutto essere capaci, e questo è un punto di orgoglio che sia Sabelli che il sottoscritto ci siamo presi, di riportare tutti quelli che oggi sono colpiti dalla cassa integrazione all'interno di Alitalia. Un impegno che è molto radicato perché rappresenta un punto fondamentale della nostra etica, della nostra concezione del lavoro, e che quindi certamente cercheremo di perseguire con tutto il nostro impegno e con tutte le nostre forze. Chiediamo a questo punto naturalmente a tutte le istituzioni che sono interessate a partecipare al rilancio dell'Alitalia un momento di collaborazione, di serenità, di positività e di abbandonare il momento politico che ha caratterizzato gli ultimi mesi, ma anche gli ultimi giorni, le vicende di Alitalia. Così Roberto Colaninno, grazie al nostro Vincenzo Emiglietta in collegamento dalla conferenza stampa che si è da poco conclusa di Alitalia, e quindi lock up, clausola di non cessione per 4 anni dei vari imprenditori. Air France non potrà aumentare la sua quota per questi 4 anni, il passaggio di quote potrà avvenire solo all'interno del gruppo di imprenditori italiani. Malpensa, confermata l'importanza per la nuova Alitalia, a patto che Linate, era sotto traccia come ragionamento, non faccia troppa concorrenza, cioè che si trovi un nuovo ruolo per Linate. Malpensa, ha detto Colaninno, deve essere l'hub, ossia l'aeroporto di smistamento, di riferimento della clientela business che vive e opera nella pianura padana. In questo modo le rotte intercontinentali potranno passare da 3 a 14, o meglio tornare anche a 14, con una visione multi-hub, Amsterdam, Parigi, Fiumicino e in questa ottica anche Malpensa, e Fiumicino con il ruolo Mediterraneo e Sud America. Staremo a vedere, in bocca al lupo, come sempre si fa a ogni nuova impresa. Domani Radio 24 seguirà con vari inviati a Fiumicino, a Malpensa, i primi voli operativi della nuova Alitalia. Li ricordo così per curiosità: uno sarà il Londra-Roma alle 6 di mattina, che è una Alitalia, e invece poi alle 6.10 il Malpensa-San Paolo, anche questo è una Alitalia, e poi sempre alle 6.10 il Palermo-Roma, che invece è un vecchio, tra virgolette, Air One. Da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata, ci risentiamo domani dalle 17 in poi.